Fiori nel mondo. Fiorita di villotte friulane. 36esima trasmissione dedicata agli emigrati. Più di 3.000 le villotte friulane, da villa, campagna. Patrimonio d'una gente che canta in coro. Esempio unico in Italia di polifonia popolare. Rigide nella forma. Quattro ottonari che svolgono un tema completo. Rustici fiori della fantasia si ispirano all'amore. Lieto o triste, scherzoso o disperato. Presente talvolta la fisarmonica di importazione tedesca. Un primo esempio. Biel Tornant, da Longerie. Di ritorno dall'Ungheria, uno dei paesi europei che assorbivano molta manodopera friulana, l'emigrante si imbatte nella sua promessa al lavatoio. Abbandonai la compagnia e mi misi a fare all'amore. Tutto qui, ma qui tutto un mondo sognato sui duri giacigli stranieri. Invariata la struttura armonica, ferma al modo maggiore, che esprime gioia, forza, benessere spirituale, la villotta viene cantata dai tenori e dai soprani che segnano la melodia, dalle voci medie che questa sostengono col controcanto a una terza o a una sesta inferiore, dalle voci più grave che eseguiscono i bassi fondamentali degli accordi, con pochi mezzi, effetti vari e attraenti. O curon, curon di gioldi, o gran cuore da godersi, chi mai ti godrà? In queste battute le spine della gelosia, del desiderio velato di pudore. Il coro di Villa Vicentina obbedisce al suo maestro senza alcun apparato scenico. Autentici contadini, reduci dalla mietitura, siedono ai tavoli, davanti ai bicchieri del vino, frutto dei loro sudori. Ora essi rendono con spontaneità la letizia del sabato, sgombro l'animo dall'assillo del lavoro, pregustando l'ora serena che li attende l'indomani. Oh! eterno come il tempo, come il tempo sempre rinascente, l'amore che affiora in ogni battuta, fosse pure d'un solo verso. Consolimi a fa l'amor. Alle volte il tema assume una comicità popolaresca che raggiunge effetti chiaroscurali notevoli. La porta chiusa, la chiave nella toppa, passa un giovane, l'apre e scompare. La madre s'adonta, richiama la figlia mentre il gatto misura le scale. Il partente per le armi o col sacco dell'emigrante rassicura la fidanzata. Mi allontano dal paese ma non dal cuore. Sii salda, o ninine, ch'io tornerò se non muoio. Ma non disperazione, non accoramento nelle maschie voci dei cantori. Semmai i forti piangono dentro, non visti. Dal paese Anonimi gli autori delle villotte. Il più estroso della brigata inventò una sera, a veglia o sul sagrato o all'osteria, parole e musica. Altri lo seguirono con naturalezza di accordi, modificando a volte le parole, adattandole alle esigenze del ritmo tradizionale. In chiusa, una delle villotte più patetiche, invocazione alla Biele Stele, a Espero, la stella dell'amore di Saffo, perché sveli il destino che, nell'imminenza del pericolo, sovrasta chi ansiosamente attende la gioventù travolta nel vortice della guerra. O tu, stele, biele stele, una preghiera a tutti i santi del paradiso, affinché il Signore fermi la strage, affinché, implora una dolente creatura, il mio ben torni in pais. Amore e dolore, in una espressione di poesia universale. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, fiorita di villotte friulane. 36esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Musiche popolari. Ha partecipato alla trasmissione il coro di Villa Vicentina, diretto da Secondo Del Bianco. Solista Renzo Del Bianco.